Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Venerdì scorso abbiamo parlato con l'onorevole Realacci, che è il responsabile della Green Economy del Partito Democratico, di quelli che, secondo appunto il principale partito di opposizione, sono le debolezze, gli errori di questo decreto legislativo del 3 marzo, che insomma ha creato molto scompiglio fra tutti gli operatori del mondo delle rinnovabili. Oggi però Realacci è tornato a trovarci, bentornato allora Realacci. Grazie, sempre volentieri. Allora, con Realacci vogliamo cercare di capire qual è la strategia del Partito Democratico. Io vorrei capire fondamentalmente questo. Dunque, noi viviamo in un paese alquanto peculiare, tanto per cambiare, 86% circa di energia primaria importata dall'estero. Io vorrei capire se il Partito Democratico ritiene che questo sia un problema, tutta questa dipendenza dall'estero, e come pensa di aggredire questa dipendenza senza carbone e nucleare, come fanno di fatto tutti gli altri paesi europei. Sì, è sicuramente un problema, soprattutto se ci leghiamo soltanto alcuni paesi, se non diversifichiamo, per così dire, le fonti di approvvigionamento. Per quanto riguarda le scelte da farsi, noi già prima della vicenda dell'incidente della centrale di Fukushima, e penso che tutti, non solo i giapponesi, debbano guardare con ammirazione al coraggio e all'eroismo di quei tecnici. Che poi non mancano mai in quelle circostanze, perché fu così anche a Chernobyl alla fine. È assolutamente vero, e insomma tante volte ce ne ricordiamo solo per poco tempo. Comunque, detto questo, noi già da prima eravamo contrari alla scelta nucleare, non per gli elementi di sicurezza legati alla possibilità di incidenti. Ecco, però Realacci, io non vorrei fare, visto che questo è un argomento che stanno trattando tutti, sì o no al nucleare, vorrei veramente capire la strategia del Partito Democratico. Lo dico per dire che il nucleare non era una soluzione, costava troppo, avrebbe fatto pagare di più il kilowattore, contrariamente a quello che si crede, quindi non era una soluzione in materia. Noi riteniamo che la soluzione in materia debba innanzitutto mettere in campo la più straordinaria fonte di energia rinnovabile non inquinante a nostra disposizione, che è l'intelligenza umana, no? Certo. Quindi un grande investimento sull'innovazione, sul risparmio energetico. Già accade così, il distretto delle ceramiche di Sassuolo, no? Sì. Ha un consumo per metro quadro di ceramiche prodotte che è il più basso del mondo, no? Sì. A Sassuolo si producono ogni anno tante ceramiche da pavimentare 4 volte il territorio del comune di Parigi. Certo. No? Lo stesso vale nei campi più vari, penso ai mobili. Lei dice lì, per un paese che poi è manifatturiero e ha poche fonti di energia, lì è l'efficienza, esatto, che risolve i problemi. E diventa una componente dell'innovazione. In altri campi possiamo fare tantissimo, pensiamo al settore fondamentale dei consumi nell'edilizia, certo, che sono un terzo dei consumi italiani. Sì. Le nostre case mediamente consumano il doppio di una casa tedesca, irlandese o svedese, no? E ridurre questi consumi significa ridurre i consumi energetici, l'inquinamento, ma anche le bollette, perché fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta di almeno 1000 euro all'anno. Certo. E c'è tanto lavoro, tanta innovazione, tante nuove imprese che nascono. Senta, i soldi per fare, poi andiamo sulle risorse, sì, sulle risorse, i soldi per fare questa ricerca e innovazione che tutti chiedono, ma poi quando si va bisogna decidere da dove si prendono i soldi, nessuno, come dire, si offre mai spontaneamente, da dove li prendiamo? Beh, innanzitutto per le cose che ho detto, i soldi praticamente si ricavano anche dallo stesso incentivo dell'attività. A consuntivo, se uno va a vedere cosa è accaduto per la partita del credito d'imposta del 55%, che è stato il vero piano casa che si è fatto in Italia, a consuntivo quelle risorse in larga parte sono state ripagate proprio dall'aumento di fatturato e dall'emersione dell'evasione. No? Sì. Lo stesso ragionamento del credito d'imposta credo vada fatto sul terreno della ricerca applicata, perché bisogna stabilire dei meccanismi automatici che favoriscono che anche le piccole e medie imprese, che non è vero che non facciano innovazione e ricerca, semplicemente non sono messe a bilancio. E soprattutto, no? Forse se la possono fare proprio sull'efficienza, che è il regno delle nicchie e non quello dei grandi investimenti come però, per le fonti. Abbiamo bisogno di aiutarli, diciamo, ad andare in quella direzione, e è un investimento che spesso Senta, si ripaga da solo. Soldi rimangono sulla bolletta oppure si vanno a prendere dalla fiscalità generale? Beh, per quello che riguarda la vicenda dell'incentivo alle rinnovabili, rimango sulla bolletta, come dice l'Europa e come fanno tutti i paesi europei. Per quanto riguarda gli altri interventi, sono degli scambi con la fiscalità generale. Il credito d'imposta del 55% era per l'appunto un credito d'imposta. Quindi... Certo, certo. Senta, andiamo sulle rinnovabili, perché la sensazione a vedere il piano nazionale d'azione è che uno studio della potenzialità italiana non sia stato fatto. Si è andato a chiedere a chi, come dire, che programmi avevano le varie industrie, fondamentalmente, io sospetto. Voi avete qualche idea di rottura? No, ma io penso che bisogna creare le condizioni per cui il mercato e il sistema di imprese cerchi le soluzioni migliori. È chiaro che se si creano le condizioni migliori, io penso che il sistema di imprese italiane, che è veramente un sistema di grande vitalità, è imbattibile. Guardi, io lo racconto spesso perché mi diverte. Io conosco una piccola impresa di Cattolica, no? Che ha questa storia. Il capo di questa piccola impresa aveva un albergo a Rimini. A un certo punto viene varata una norma per cui bisogna mettere dei sensori antincendio, credo. Lui è terrorizzato dall'idea di dover sfasciare tutto l'albergo e allora si inventa, va a recuperare un brevetto che consentiva di far passare una serie di informazioni nei cavi elettrici. A partire da questa cosa nasce una piccola azienda che si specializza nell'ottimazione dell'illuminazione stradale, in maniera tale da renderla più efficiente e quindi consumare meno energia. E ha vinto una serie di appalti in molti paesi del mondo, tra cui 100.000 punti luce in Arabia Saudita, compreso la Mecca, Riyadh e la Medina. Se lo scopre Bin Laden pensa che è un complotto crociato, no? E invece la capacità dell'Italia di essere veramente un grande paese manifatturiero. Grazie Realacci. Grazie a voi. È tutto, a domani.